Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Pronti per il soundcheck? Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, buonasera alla nostra Silvia Barba, qui pronta dal Groovemaster Studio per dar vita a tutta la sua passione per la musica. Buonasera a te, buonasera a tutti. Buonasera Silvia, allora intanto io voglio anticipare, te l'avevo promesso, che più tardi, subito dopo l'informazione di Radio 24 delle 20, ci collegheremo con Brooklyn, New York City, per farci raccontare dal nostro amico Leo Sidran che cosa sta combinando con i suoi podcast, che ormai sono diventati un punto di riferimento per gli appassionati di musica, per scoprire novità e soprattutto scoprire gli artisti. Praticamente il nostro amico Leo Sidran produce delle puntate con ospiti, artisti di varia natura, ma anche insomma musicisti importanti, giovani talenti che si stanno affacciando adesso sulla ribalta newyorkese, producer importantissimi, per far conoscere un sottobosco, anche come funziona lo show business. Chiamiamo Leo Sidran via Skype perché qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti per telefono per parlare di cose di lavoro, mi ha detto: no, ma sai, qui la radio negli Stati Uniti non funziona più, praticamente la radio è soltanto per l'informazione, la musica non circola più in radio. E infatti io gli ho fatto subito una domanda: ma allora per promuovere la musica negli Stati Uniti come si fa? Si utilizza internet. Quindi anche oggi noi, in questa prima parte, in qualche modo andremo a disquisire di come fare informazione sulla musica oggi sul globo terracqueo, e poi parlando del nostro paese. Quindi attraverso i podcast. Attraverso i podcast. Guarda che i podcast. Perché fai quella faccia? No, perché io ho delle cose da chiederti riguardo alla nostra puntata e rispetto ai nostri podcast. Tramite i nostri ascoltatori. Io lo so, noi abbiamo dei problemi col nostro podcast, ecco. Per quanto ci siano e siano presenti sul sito di Radio 24 nella pagina del soundcheck, abbiamo dei problemi perché i nostri fedeli radioascoltatori si lamentano della mancanza all'interno del podcast proprio del repertorio musicale che noi proponiamo in diretta su Radio 24. Abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Ma io che cosa posso fare? Più che invitare i radioascoltatori a raggiungerci nel Groovemaster Studio il sabato e la domenica a seguire la puntata in diretta, oppure addirittura dopo la puntata prendo la registrazione e ve la mando personalmente via mail con un Dropbox, un WeTransfer. Di più non posso fare. Tocca scrivere alla direzione di Radio 24 e capire qual è il motivo principale per il quale la musica viene tagliata nei podcast. Io l'ho scritto tante volte, di più non posso fare. Purtroppo sì. Lo devo dire al direttore di Radio 24, Roberto Napoletano, per favore ci fate ascoltare la musica anche nei podcast, più di questo non posso fare, Silvia. Troviamo una soluzione, direttore. Troviamo una soluzione, un compromesso. Allora, parliamo dell'informazione, cioè di come bisogna comunicare la musica oggi. Certamente internet è un mezzo che agevola soprattutto i musicisti più giovani, quelli che ancora non sono approdati a un'etichetta importante, è una multinazionale che ha un budget a disposizione per poter diffondere il loro messaggio musicale e le informazioni che riguardano una produzione discografica più o meno importante e danarosa. Però c'è internet che li aiuta. Esatto, spieghiamo innanzitutto brevemente cos'è un podcast, no? Il podcast è un insieme di tecnologie che permettono appunto di scaricare automaticamente dei file di natura diversa, o che siano video o che siano file audio. Molte trasmissioni, anche attualmente, vivono di podcast, lo spiegherà bene il nostro Leo Sidran. Perché? Perché chi non ha la possibilità di ascoltarle o di vederle in diretta attraverso i canali, diciamo, come dire, tradizionali di trasmissione, può scaricarle e sentirle nel suo iPhone o iPod, quello che vuole, successivamente, e quindi si possono portare. È un personal on demand, ecco, questo, ecco, vuol dire. Quando mi ha detto che negli Stati Uniti la radio non funziona, naturalmente si riferiva alla musica, invece da noi c'è ancora questo legame forte fra la musica e la radio. La radio essenzialmente, insomma, Radio 24 lo sappiamo, è una radio che fa essenzialmente informazione, e anzi io mi ritengo veramente fortunato a poter parlare della mia musica preferita su una radio così importante, una radio che fa informazione. Quindi anche noi in qualche modo, da musicista divento un promoter ma anche un giornalista, e cerco di raccontare la mia passione per un certo tipo di musica. Certamente non la posso rappresentare tutta, però in altri network invece la programmazione è fatta quasi al 50% di proposta musicale, il resto di notizie, informazioni e stupidaggini anche. Esatto. No? Ora, detto ciò, però in Italia siamo ancora legati alla musica in radio, negli Stati Uniti invece questa formula non funziona più. Però dagli Stati Uniti arriva ancora tanta musica, e tanta noi abbiamo scoperto, hai visto, faccio un taglio brusco perché ho bisogno dopo qualche minuto di sentire subito ritmo e note, e vorremmo farvi ascoltare per la prima volta al Soundcheck un'artista straordinaria. Ho selezionato due brani, intanto io direi di presentarla subito con nome e cognome, titolo dell'album e titolo della canzone. Ascoltiamo il brano e poi parliamo di lei, perché ha anche questa ragazza una storia. Di chi parliamo? Judith Hill, l'album si chiama Back in Time e il brano che ascoltiamo ora è My People. My People, Judith Hill, per la prima volta al Soundcheck. Ecco, visto che parliamo di informazione musicale attraverso la radio, i podcast, tutto quello che le nuove generazioni possono fare per comunicare la loro arte e il loro talento, eccola qui Judith Hill, che prepotentemente, credo con un primo album intitolato, come ha detto Silvia, Back in Time, si affaccia nel panorama internazionale, però con una storia alle spalle che ci viene raccontata dal suo mentore. In questo caso oggi il mentore di Judith Hill è un signore che si chiama Prince. Mamma mia ragazzi, una storia pazzesca, perché lei, devo dire, nel 2009 venne scelta per fare da vocalist nel tour This Is It di Michael Jackson. Quindi se l'è fatta con sì, tutti e due, prima sì, Michael Jackson e poi Prince. Ebbene sì, poi insomma nel 2009 sappiamo tutti che Michael Jackson venne a mancare, ma lei continuò questo percorso di questo tour attraverso il Memorial che fecero successivamente alla morte di Michael Jackson. Poi partecipò ad un documentario che vinse il Grammy Award, mm-hmm, che si chiama 20 Feet from Stardom. Sì, praticamente 20 piedi dal successo, dalla ribalta. Che narra la storia appunto di tutte queste coriste che stanno infatti, dietro. È la distanza che sta fra il corista e la star. Il frontman. Dunque vinse questo Grammy Award per Best Music Film e poi partecipò, te lo devo dire, a un talent show. The Voice. A The Voice, però la mandarono via. Sì, fece scandalo la sua eliminazione, credo durante le semifinali, perché era veramente un talento riconosciuto da tutti, ma venne eliminata. Tra l'altro è sangue misto, Judith. Sangue Hill. Misto, perché i genitori sono... è bellissima, tra l'altro. I genitori sono giapponesi, di discendenza africana perché è nera. È un melting pot pazzesco, una voce emozionantissima, quindi credo che Judith Hill farà parte sempre più spesso del nostro Airplay che potete seguire qui su Radio 24 in questo momento. Il brano si intitola As Trains Go By, Judith Hill supportata da Prince, e si sente quanto si sente. Bellissimo. Il suono di Minneapolis del Paisley Park di Prince. Soundcheck, il suono della musica. E anche Gabriel Garçon Montano, pur non appartenendo all'entourage, alla casa discografica di Prince, risente però di quel tipo di espressione ritmica e sonora. Keep on Running, brano che abbiamo già presentato qui al Soundcheck di Radio 24 la settimana scorsa e che ha grande richiesta da parte dei nostri radioascoltatori, vi abbiamo fatto ascoltare. Oggi parliamo di come si possa fare informazione musicale, perlomeno anticipiamo l'argomento perché ne vogliamo parlare con Leo Sidran, che si collegherà con noi dal suo studio di Brooklyn, New York, visto che oggi, oltre ad avere successo come producer discografico, producer di musica per commercials, sta avendo successo con la sua third story, la terza storia, il suo podcast che è ascoltatissimo perché incontra grandi e piccoli artisti newyorkesi e quindi ripropone attraverso il podcast fedelmente questi incontri e queste interviste che stanno spopolando. Io anche mi sono iscritto al podcast di Leo Sidran e quindi quasi tutte le settimane ascolto le sue proposte. Naturalmente sono impazzito quando mi ha proposto il podcast con Becca Stevens. Io l'ho chiamato subito e mi sono fatto raccontare tutto di Becca Stevens e purtroppo mi ha detto che è fidanzata. Purtroppo per te, però purtroppo non si sa mai, ci si lascia nella purtroppo vita. Io sono in contatto con molti artisti come Becca Stevens e quindi le mie informazioni musicali, te lo voglio dire Silvia, le vado ad accaparrare utilizzando Twitter più che Facebook. Facebook non mi diverte più. Perché fai questa faccia? Perché Facebook è diventato, io parlo per motivi professionali, certamente, no? Se tu vuoi diffondere, che ne so, promuovere un tuo concerto e lo fai su Facebook, noterai che dopo aver messo la locandina del tuo concerto, addirittura alla Carnegie Hall, perché hai ricevuto il Grammy Award, avrai 10 mi piace. Se tu invece su Facebook esponi una tua fotografia con le dita nel naso che ti stai scaccolando o sei sporca di su perché hai mangiato la matriciana, avrai 500 mi piace. Oh. Quindi che cosa significa? Che cosa ne deduci tu? Io ne deduco che la gente è più interessata alla parte personale, quindi utilizza Facebook per farsi un po' di affari propri, che per quella professionale. Invece con Twitter il messaggio è diretto, se sei online lo vai a raccogliere e io mi diverto moltissimo con Twitter. Devi pubblicare le foto dei gatti, vedi quanti mi piace riesci ad ottenere Facebook. Tu pensa che io ho un mio cugino che si chiama Vittorio che molto spesso ha utilizzato questa tattica per rimorchiare, pubblicando su Facebook fotografie di gatti e gattini e cagnolini e quindi in questo modo riusciva a rimorchiare, me l'ha detto più volte. Però i nostri ascoltatori possono iscriversi alla nostra pagina Soundcheck di Radio 24 su Facebook, lo voglio dire, certo, e possono scriverci, mandarci le proprie proposte, critiche. Le critiche, lamentele, perché no? Perché pubblichiamo no? Le scalette, le noi fotografie. Vogliamo crescere, vogliamo migliorare sempre, no? Allora, da Gabriel Garzon Montano direi di tornare invece ad ascoltare qualcosa da questo album intitolato Malibu. Malibu, ovvero una zona molto bella della California, lì attaccata a Los Angeles ci sono tutte, Sant'Antonio, Venice Beach, Malibu, e a Malibu risiede un signore chiamato Anderson .Paak. Anche di Anderson .Paak abbiamo parlato più volte, adesso ne parlano tutti perché ha firmato un bel contratto discografico. Esatto, questo è il suo album che si chiama appunto Malibu, viene da un album che precedentemente si chiamava Venice e quindi è molto legato alla sua Venice California. Beach, Venice Beach e Malibu. Esatto, è anche lui frutto di un melting pot perché è un nero coreano e tra l'altro qualche settimana fa ha vinto un premio molto importante come rivelazione dell'anno. In tempi non sospetti noi l'avevamo già passato, ecco, poi non dite che non ve l'avevamo detto. Ecco, ha vinto il Giles Peterson Worldwide Award, che quindi è lì in Inghilterra. In Inghilterra, che è comunque un premio molto interessante. Tra l'altro è in tour in tutta Europa, eccetto in Italia. Ecco, ma lo vedremo presto perché comunque la casa discografica che lo supporta è importante. Proprio importante, non è molto conosciuta la Hellfire Club. No, è assolutamente sconosciuta. Allora mi domando come fa uno come Anderson .Paak a farsi conoscere e riconoscere in tutto il mondo, per lui, quale motivo? Attraverso Twitter è spintissimo da tantissimi artisti suoi conterranei, ovvero californiani, non ultimo Flying Lotus e Bandcamp, quindi con tutte le nuove tecnologie. Brava, perché la cosa che funziona è il network di strada, come diceva un mio amico, il passaparola. Allora se fra addetti ai lavori, quindi il disc jockey, il promoter che ne so, di concerti, gira un nome come Anderson .Paak e tutti si dicono è bravo e via dicendo, ecco, Anderson .Paak adesso viene riconosciuto. Un retweet vale 150 poi, adesso che ha vinto, vedrai, adesso ha vinto il premio con Giles Peterson e quindi andrà in Inghilterra, farà 3 mesi a Londra, è andato Anderson .Paak. Yeah. Anderson .Paak, facci sentire che hai combinato, il brano si intitola Heart Don't Stand a Chance, non è male. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, alcuni non mi crederanno, ma questa band chiamata Jambalaya 37, anzi dovrei pronunciare Jambalaya 37, è una band italiana from Torino. Allora, come comunicare che in Italia c'è una band forte che propone un certo tipo di musica con questo taglio? Come si fa? Ecco qui, basta mandarci il disco, se ci piace noi lo mettiamo in onda. È andata così con Jambalaya 37. Senti, ma quanti dischi ti arrivano durante l'anno? Tanti. No, ne arrivano tanti, soprattutto di jazz. Una volta il genere più stampato in Italia era il neomelodico, no? Soprattutto nell'area campana. Adesso devo dire che il jazz, realizzare un disco di jazz è molto semplice, intanto perché la produzione costa meno che nel pop, per tanti motivi. Si entra in studio, in tre o quattro, un piccolo studio, anche un home studio, riesce a registrare qualcosa. Arriva tanta roba, però purtroppo non tutto quello che arriva è buono, è proponibile in radio, perché noi comunque in radio facciamo un lavoro propedeutico, non possiamo spingere l'acceleratore, che so, sulla creatività, no? Quindi cerco di mettere in onda delle cose che possano portarci del pubblico, portare dei nuovi appassionati al jazz e alla musica che piace a noi e non allontanarli. Bene, ti presento questa formazione, vuoi sapere da sì, chi è formata? Fammi sentire Jambalaya 37, anche perché ci siamo, dobbiamo andare all'informazione di Radio 24 e poi Leo Sidran da New York. Enrico Formato alla chitarra, Gabriele Biai al trombone, Gilberto Bonetto al piano, Alessandro Reise alla batteria e Dario Balmas al basso e alla voce. Oh, e in questo brano io saluto e ringrazio tutti questi ragazzi, spero di incontrarli presto, magari a Torino. In questo brano che vi presentiamo, si chiama Blood Moon, c'è la partecipazione del vocalist Robbie Preto, o Prido, come lo devo pronunciare? Io direi Prido, fa molto Prido. Cool. Robbie Prido con Jambalaya 37 al Soundcheck. Yo! Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte, puntualissimi come sempre dopo l'informazione di Radio 24 con Silvia Barba, e naturalmente puntualissimo come un eccellente producer sa fare, collegato con noi via Skype da Brooklyn, New York City. Ladies and gentlemen, put your hands together, Mr. Leo Sidran in person. Ciao. Hey. Ciao Leo, how are you? Ciao JJ, I'm good, man. How are you? Oh, molto bene, sto molto bene. Very well, and I'm very happy to see you. I'm very happy to talk to you because I want to talk about promotion, music promotion. Sì, l'abbiamo detto, vogliamo parlare di come si promuove la musica oggi. Perché ne voglio parlare con il signor Sidran? Perché Leo Sidran da un po' di tempo è protagonista di un suo podcast personale che sta andando molto bene negli Stati Uniti e precisamente a New York. So you use your podcast for promoting new talent in music. Why? I think in the United States right now, we are experiencing what some people call the podcast revolution. Ecco, loro but stanno provando podcast, quello che alcuni definiscono la rivoluzione del podcast. So what's the podcast revolution? I mean, I think that it's part of the fact that regular radio doesn't work like it used to for promoting music. Ecco, questo so people perché have to look for new ways. Ecco, la gente sta cercando delle nuove strade perché la radio non funziona più nella promozione della musica. So, first of all, I wanna talk about radio. Why for you radio doesn't work so well for the music right now in United States? Perché la radio non funziona più così bene negli Stati Uniti per la musica? Maybe it's the same thing that happens in many different industries, that you have a consolidation of big companies that control all of the radio stations and they rely only on formula. So we don't have creative DJs like you in the United States who can play what they like and the audience trusts them. Sì, perché sono cambiate le regole comunque in tutta l'industria, no? Sono cambiate le regole e probabilmente perché negli Stati Uniti ci sono le grandi compagnie che controllano tantissime radio e proprio per questo motivo non ci sono più dei personaggi, degli artisti, dei DJ, come diceva Leo, che hanno la libertà di poter suonare la loro musica preferita. E infatti noi siamo contenti perché abbiamo questo privilegio e ringraziamo sempre Radio 24 per darci questo questa opportunità. So radio doesn't work so well, but they work a lot with the podcast in the United States. Quindi negli Stati Uniti si lavora molto col podcast. What's podcast? Che cos'è il podcast? You know, I think different people have different ideas of what a podcast is. A podcast could be something as simple as a re-emission of a radio show on the internet. Or it could be, in my case, a radio program that only exists on the internet and is only designed to be downloaded on the phone or listened to on the computer, and it never exists on the radio. Ecco, allora ci sono varie interpretazioni. La prima è che un programma radiofonico può essere, come il nostro, può avere un'esposizione in internet attraverso un podcast che quindi puoi ascoltare quando vuoi, oppure programmi radiofonici che non esistono in radio, come quello che propone Leo, che invece è presente in internet. So, how do you produce your podcast? Come produci il tuo podcast, Leo? What well, kind you of know, podcast do you produce? I know well, but... You know this well. I like to have conversations with people about the process of creating music and thinking about music. In fact, I like very much the question of where your life and your art meet. This intersection between life and music, this is the place I like to be. Ecco, quello che lui fa sono delle conversazioni con gli artisti, e la cosa più bella che domanda agli artisti è proprio la cosa di conoscere dove si incontrano la vita e la musica, la vita e l'arte. Questa è la cosa fondamentale per un podcast che si intitola The Third Story. Now it's time for the music. Adesso è arrivato il momento per la musica. I think it's time for Mucho Leo. Questo è il titolo dell'ultimo lavoro di Leo Sidran, un album creato in questo famoso terzo piano lì a Brooklyn, dove Leo ha il suo home studio e dove ha suonato tutti gli strumenti li ha suonati lui per creare fra i brani quello, uno dei miei preferiti, ovvero Why Can't I Have What I Want Today. Leo Sidran al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Lo abbiamo già presentato, questo meraviglioso musicista compositore si chiama Alex Cuba, la voce quella di Ania Marina, per una produzione curata da un mio amico. Questo mio amico si chiama Leo Sidran, che è collegato con noi dal suo studio di Brooklyn, New York City, e infatti Leo ha collaborato proprio a questo album di Alex Cuba intitolato Healer, dal quale abbiamo ascoltato il singolo intitolato No Esperes Mas. So Leo, tell me something about your friendship with Alex Cuba and this incredible collaboration with the winner of the Latin Grammy. You know, I think you can understand something about the life of this man, Alex Cuba, because he lives outside of any city. He lives in the country in Canada. Mm-hmm. And yet he stays very connected to the community in New York and in Miami and in Latin America. He's a very interesting artist because he lives in isolation in Canada, even though he's from Cuba. Mm. But he's also one of the most important singer-songwriters in Spanish today. Eh sì, è un compositore affermato, molto apprezzato fra quelli in lingua spagnola, che vive isolato in un piccolo centro in Canada, ma è molto ben introdotto nell'ambiente musicale internazionale a New York, ma in giro per il mondo. Vincitore del Grammy Award, Latin Grammy, e quindi in qualche modo anche il nostro producer Leo Sidran ha vinto il Latin Grammy, ma il signor Leo Sidran ha praticamente a casa nel suo studio un altro premio importante che è l'Oscar. Non so se lo sai, ma questo signore qui è vincitore anche di un Oscar, mia cara Silvia. Davvero? Sì. Può, io posso vedere adesso dal Skype i nostri ascoltatori, no, ma insomma vi confermo questa cosa. Sì, is the winner of the Oscar and the Latin Grammy. So but how you can do that? I don't know, but I am the guy who makes these records in my house, I'm in my house. I'm in my little studio in my home. And then they win these awards. I don't understand it. I really don't understand. But now it's the second time because I made the song with my friend Jorge Drexler 10 years ago that won an Oscar. And we recorded this song also in my home. Ecco, sì, ha vinto l'Oscar perché ha scritto questa composizione con Jorge Drexler, vincitore dell'Oscar per la colonna sonora dei, come si chiamava? Viaggi in motocicletta. So what's diari della motocicletta. I diari della motocicletta. So was the story about Che Guevara, la storia del giovane Che Guevara che girava per il Sud America con la sua motocicletta. Allora, Leo Sidran è collegato con noi dal suo home studio dove vengono realizzate moltissime produzioni. Una delle produzioni realizzate ultimamente pochi mesi fa è stata a giugno, è stata per una band che ci ha visto collaborare insieme, band progetto chiamato Fun Slow Ride. So, so what do you think about Fun Slow Ride, this new project? You know, Fun Slow Ride is my favorite kind of project because it brings together people from all over and they find the common point of view in music. So you have some of the best singers and musicians from New York and from Europe. You have an international profile of people all coming together to make music that is really optimistic and positive music. Ecco, è uno dei suoi progetti preferiti, proprio il tipo di progetto che lui gradisce, proprio perché vede la collaborazione di artisti e musicisti di grande talento che arrivano da tutto il mondo. E nel brano che stiamo per presentarvi, intitolato Let the Children, c'è anche la partecipazione di un signore al quale siamo affezionati. Io, proprio perché lo considero non solo un mio amico da ormai da più di 30 anni, ma anche il mio maestro per tanti motivi. E credo che Leo Sidran non possa che volergli bene, visto che stiamo parlando di suo padre e quindi di Ben Sidran. So your father, Ben Sidran, was in the project. Yes, as you say, he's your teacher and he's my teacher too. We share the same teacher, JJ. Yeah. Yes, my father is on the project. And in the recent years, my father has become a kind of wise old man, like in the village in Africa, the man who just speaks the essence of truth. And on Let the Children, he speaks a kind of wisdom of the ages. That's a rap, but not just a rap. Sì, spoken words più che un rap, quello che propone Ben Sidran, che in questo brano appare come la figura mitologica, una sorta di filosofo, di uomo anziano ma saggio. Yeah. Fun Slow Ride, Let the Children con Ben Sidran, Joy Dragland, Aine al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Gretchen Parlato, Alan Hampton insieme in questa composizione di Alan Hampton intitolata Still. E Alan Hampton è uno degli amici, colleghi di Leo Sidran, personaggio formidabile che io ho conosciuto discograficamente ascoltando la sua musica e le sue numerose collaborazioni, ma poi l'ho conosciuto personalmente proprio a casa di Leo durante le lavorazioni del progetto Fun Slow Ride, e prestissimo sarà pubblicato questa composizione intitolata Next, proprio featuring Alan Hampton. E Alan Hampton e Gretchen Parlato in qualche modo ci introducono il prossimo argomento che vorrei trattare con Leo Sidran: farmi raccontare la scena newyorkese di oggi. Sì, c'è uno strano fermento, una strana combinazione. C'è una meravigliosa scena jazz con artisti della nuova generazione che continuano a proporre il passato del jazz, ma anche il jazz contemporaneo. Poi c'è una scena particolare, un po' quasi fra il bluegrass e la folk music, ma viene fuori una indie music con delle spezie particolari fra il jazz e l'indie. So tell me about the new New York scene. You know, you describe it beautifully because it's right. It has elements of folk and pop and jazz and even contemporary classical music sometimes, all combined, and chamber music sometimes. And, ecco, qualche volta anche musica da camera. I think maybe it's the first generation that doesn't feel an obligation to choose between all of their influences. Mm. E questo forse perché c'è una prima generazione di artisti e di musicisti che non sceglie un genere catalogato. Right? And Yes, exactly. And because you understand this, and I understand this well, that we as young people, we love all kinds of music. But then you have to choose, okay, well, today I'm making jazz, and tomorrow I'm making funk, and then the next day I'm going to make pop. Mm-hmm. Really, you have a group of musicians who say, no, it's all the same music. Mm. Quindi non sono artisti che scelgono un genere, ma oggi suono jazz, domani vado a suonare qualcos'altro, e la musica che poi viene fuori è questa strana ma anche affascinante combinazione di stilemi e di generi e di sonorità. How can you describe your music or your mentality in music today? Come può descrivere la sua mentalità musicale oggi? My mentality... Well, I actually, for the first time, I think that the best way to approach making music is only with love and not worrying about the market, because the market, the business, is a mystery, so you can't worry about it. Ecco, quindi l'approccio migliore è quello di vivere la musica con l'amore, con la passione. È inutile pensare al marketing, perché oggi il marketing è completamente andato, e ne parlavamo prima. Se le radio negli Stati Uniti non propongono più musica perché non funziona e si lavora soltanto attraverso i podcast e internet, questo ci fa capire quanto vasto sia oggi come dire il perimetro e i confini della musica. Mio caro Leo, I think that now it's time to check another fantastic piano player and singer. È il momento di ascoltare una bravissima pianista cantante, si chiama Laila Bialy, è una delle mie preferite, con The Radiance Project, dall'album From House of Many Rooms. Il brano si intitola Home. Soundcheck, il suono della musica. Un altro brano tratto da Mucho Leo, l'ultima pubblicazione di Leo Sidran per una meravigliosa etichetta indipendente newyorkese, si chiama Rope Dope. Mucho Leo, il brano era After the Damage is Done. Leo è collegato con noi dal suo studio in Brooklyn, parlando proprio dopo che il danno è stato fatto. Questa è la traduzione del titolo di questo brano di Leo Sidran. Io vorrei ricordare un momento particolare della vita e della carriera anche di Leo, vissuto pochi mesi fa. Perché esattamente che giorno era, Silvia? Era la notte del 13 di novembre. Il 13 di novembre con Silvia eravamo a vedere Christian Scott con Stretch Music, e tornando a casa di notte a Roma abbiamo sentito in radio la notizia degli attacchi terroristici a Parigi. E sapendo che Leo e Ben Sidran erano a Parigi, io sono andato nel panico totale. Ricordo esattamente il momento in cui hai provato anche a telefonare subito per sapere come stessero e cosa fosse successo, però loro purtroppo non ti hanno potuto rispondere, quindi poi siamo entrati un po' in quell'atmosfera come dire preoccupata, perché ovviamente tu volevi avere delle notizie ma i collegamenti erano completamente interrotti. Volevo sapere da Leo cosa ha provato stando direttamente e era in centro, perché lui loro suonavano. Sì, loro erano al Sunset a New York, avevano un gig lì e poi è successo quello che è successo. Tell me something about that night in Paris. You know, it was very strange. The first thing I can tell you is that everybody received their information from their phone, from the telephone. So, from the stage we could see that the entire audience was looking at their phone and looking at the concert and looking at the phone, like they didn't know if they should move or stay. Nobody knew. Should we stay in the concert or should we go somewhere? Ecco, la prima cosa che hanno notato suonando e quindi dal palco è che il pubblico ha iniziato improvvisamente a vedere il telefonino, perché le notizie arrivavano sul telefonino, e quindi guardavano un po' il concerto e un po' vedevano al telefonino e non sapevano se dovevano restare a vedere il concerto o scappare. And then? And I can tell you that I discovered that night that when an artist or a musician is on stage, they become a very important person to the audience, because the audience, the public, was looking to us to make a decision about what to do, and they wanted us to tell them what to do. Ecco, e ha capito quella sera quanto è importante il ruolo anche del musicista, dell'artista che è sul palco, perché la gente pendeva dalle loro labbra, stava aspettando da loro un cenno per capire che cosa fare. And what you did? We played a little, very short, and then we said to everybody, it's time to be safe, we'll see you next year, please go home and be careful. And we finished the concert. And I can tell you that 10 minutes later, all of Paris was empty anyway. Ecco, e allora quello che hanno fatto è stato continuare a fare un po' di musica e poi hanno chiesto al pubblico di lasciare la sala e di mettersi in salvo, di tornare a casa. E la cosa incredibile è che nell'arco di 10 minuti Parigi era spettrale, non c'era nessuno in giro. But I must say one more thing, which is that I also learned that night that to play music, to come together in community, is a radical thing to do, and we must continue to do it. That this is it's not something just for fun, it is our obligation to do this now. Ecco, questa è una cosa bellissima che sta dicendo Leo. Praticamente il nostro lavoro, quello di esibirci, di salire sul palco, non è solo un divertimento, ma è qualcosa di più profondo, di più importante, che in qualche modo ci viene chiesto dal pubblico stesso. Thank you, Leo. Thank you guys. Thank you. Bye. Allora, noi vi lasciamo, ciao. Vi lasciamo con un artista protagonista di una puntata di Third Story di Leo Strigian, che potrete risentire nel suo podcast, che è la meravigliosa Becca Stevens, che è una delle mie preferite. E quindi vi lascio con You Make Me Wanna di Usher nella versione di Becca Stevens Band. Grazie a Leo Strigian, grazie a Silvia Barba. Ci risentiamo domani, sempre soltanto su Radio 24.